qualche cosa negli occhi di un altro ci farà ripensare ai miei occhi, i miei occhi che ti amavano tanto e lontano, lontano nel mondo, io un sorriso sulle labbra di un